Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Quando io sono arrivato in nazionale, no, lo scenario era esattamente questo. Se ne qualificava una sola perché c'era la Spagna, quindi il percorso è stato buono perché siamo arrivati a giocarci alla pari la partita in Spagna, quindi avremmo dovuto cercare di andare ai playoff. Mentre cercavamo di andare ai playoff, cercavamo anche di essere nelle prime quattro. È esattamente tutto quello che è successo per arrivare ai playoff. Ora i playoff bisogna superarli. Se non verrà superata ci saranno disquisizioni in senso negativo, se verrà superata ci saranno altri tipi di disquisizioni, quindi aspettiamo la partita domani sera, ma è uno scenario chiaramente che era chiaro a tutti quando siamo partiti, non ci può essere sorpresa. Eccoci qua, non ci può essere sorpresa. Questo Ventura due ore fa da Piano Gentile ha detto anche: il percorso fin qui è stato buono, e questa credo sia la frase centrale su cui oggi dibattiamo, carissimo Carlo Genta. Dopo le 17.30 ovviamente apriremo la grande pagina sulla giornata di vigilia di Italia-Svezia, vi daremo tutte le ultime notizie e vogliamo anche sentirvi. 800 24 00 24, prenotatevi e intervenite. Da qui posso fino alle 19, 349-238-6666 invece per i vostri sms e whatsapp, seguiteci anche su Twitter, chiocciola tutti convocati. E invece secondo me c'è una parte di dichiarazione in cui Ventura ha assolutamente ragione, cioè ci sono delle critiche esagerate sul fatto di essere qui a giocarci lo spareggio, quando lo sapevamo da due anni, dal giorno in cui è stata estratta la pallina della Spagna sapevamo che quasi certamente noi saremmo stati qui. Però che il percorso sia stato buono significa che Ventura è da solo, chiuso nella torre, a giocare l'ultima partita forse della sua carriera. Sì, assolutamente, l'ultima partita della sua carriera, perché tutto sbagliato fin dall'inizio. Però il percorso non è stato buono e soprattutto è stato pessimo il modo in cui sei arrivato a questo punto, che poteva essere previsto, però doveva arrivarci in un'altra maniera. Quindi non è inaccettabile, sono inaccettabili queste dichiarazioni. Se tu mi dici con la logica di prima, la Spagna, ma io dico più che c'è anche noi... c'è un eccesso di critica su Ventura in questi giorni. Eccesso... Dico ad esempio che venerdì sera la partita dell'Italia, questo è il mio parere, è stata una partita pessima, giocata malissimo dall'Italia. Dunque? Però oggettivamente, ad esempio, a tanti altri CT in passato, che forse godevano di migliore stampa, sono stati dati alibi che a Ventura non sono stati dati. Ma secondo te bisogna perché andare ad esempio, perché ad esempio l'idea che l'Italia abbia perso su mezzo tiro sporcato e sarebbe bastato pochissimo anche con quel poco che ha fatto per uscire con un risultato diverso, quando lo dice Ventura dice una verità relativamente, cioè hai perso la partita, certamente non l'hai giocata bene, quindi rimangono i fatti di una sconfitta 1-0 e di un'Italia che secondo me da facciamo i bravi da 5 in pagella, possiamo anche dire da 4, e questo è il merito, è il voto che merita anche l'allenatore della nazionale, che è pagato per arrivare a questo punto. Era già tutto previsto, come diceva il poeta, però in un'altra maniera. Sì, io credo in ogni caso che l'elemento davvero preoccupante sia questo rinchiudersi davanti alle critiche. Poi dopo le 17.30 avremo modo, però lui che dice il percorso fin qui è stato buono, secondo me è un segnale che deve far scattare qualche campanello d'allarme. Dicevamo, dopo le 17.30 arriva anche Pierluigi Pardo, però se volete intervenire a 800 24 00 24 diteci voi che cosa dobbiamo fare. C'è chi scrive: meglio passi la Svezia, così eviteremo altre brutte figure. Oggi i giornali scrivono tra le righe che se anche dovesse passare Ventura non sarà l'allenatore dell'Italia al mondiale, e questo è uno scenario interessante e vogliamo anche sapere che cosa ne pensate. Oh, però vi voglio anche sentire, a partire da te Carlo e da Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Nemmeno l'allenatore dell'Italia. Ciao, ciao ragazzi. Ma insomma, domani sera vediamo. No, voglio adesso celebriamo Marquez campione del mondo. Però è da questo pomeriggio che io, Claudia Schiattone, Carlo Genta litighiamo su quella storia di Lorenzo che, sollecitato dalla Ducati per 5 o 6 volte, si rifiuta di dare spazio a Dovizioso, che sta disperatamente provando a capire se esiste la possibilità di mettere pressione a Marquez a Valencia. E allora vi faccio sentire la spiegazione Dovizioso a fine gara. No, per la Mapoto anche stavolta non me ne avevano parlato, ma è normale, dai, stai giocando il campionato, se c'era il modo di darmi una mano me l'avrebbe data, lo ringrazio, non mi ha fatto passare, ma alla fine è stato un vantaggio averlo davanti, mi ha aiutato ad essere a guidare morbido, perché era quello che non sono riuscito a fare questo weekend, e seguirlo attaccato, lui è molto molto preciso e mi ha aiutato, perché eravamo così. Beato Dovizioso che ha delle certezze, no Roberto? No, ma mi sembra un po' venturesco, se me lo consenti. Roby, vai, che pensi? No, allora, dai, deve farlo passare. Chiariamo prima un punto: quanto caccia la Ducati, ricordamelo Roby, per ingaggiare Jorge Lorenzo a stagione? 12 contro i 2-2-5 di Dovizioso. Quest'anno si ridiscuterà il contratto, perché ovviamente è in rinnovo Dovizioso e ovviamente salirà. Giovanni, difendilo, però magari uno può dire è politica la sua risposta, perché lui è sempre corretto. Io ne sono assolutamente convinto. Ti dico, no, la verità, te la dico io la verità. I primi giri, quando era veramente attaccato sotto, poteva farlo passare, poi gli hanno dato le segnalazioni, ma Dovi non ne aveva, e comunque era distante qualche metro. E quando è così distante, però perdonami Roberto, Roberto, io ho visto oggi Pedrosa nei primi giri, nei primi 3-4 giri, fare giustamente il vassallo di Marquez, però, compagno di scuderia, e secondo me Pedrosa poteva anche provare a superarlo. Non l'avrebbe mai fatto. Fatto, perché è un compagno. Quindi Lorenzo, se dal muretto ti invitano e tra l'altro esponi la Ducati a una bruttissima figura, che è quello che è successo oggi. Ti spiego, è una dinamica diversa, perché pronti via Pedrosa ha fatto un eccellente lavoro, grande uomo squadra, alla prima curva. Lì non ci sono segnalazioni, non sai come può andare, ha cambiato traiettoria, si è messo alle spalle di Marquez e ha fatto il guardiano, ha fatto in modo che nessuno potesse passare, meraviglioso, quello è un uomo squadra, e lì non ci sono segnalazioni, non c'è niente, quello gli viene dentro dall'istinto naturale. Perfetto. Quando all'inizio Dovi era su Lorenzo, lì Lorenzo avrebbe potuto farlo passare, magari girarsi mezza volta, cosa che riesce a fare solo Marquez in movimento, avete visto come riesce a girarsi, solo lui lo fa. Quando gliel'hanno segnalato c'erano troppi metri, era troppo lontano, e non è naturale farlo passare in quel frangente, perché quando tu hai l'esigenza di passare un pilota comunque ti fai sentire il rumore della tua moto, fai mezza moto in fianco, cioè ti fai vedere, ti fai sentire, e allora è naturale che Lorenzo si fosse spostato. Io ho un'opinione differente. Aspetta un attimo, Roby, tu hai ragione, tecnicamente tu sei un pilota, sei il massimo esperto possibile, Roby, ok, però io ti do, buttiamola sempre sul vil denaro, ti do quei soldi, ti do un ordine di scuderia, fai in modo Roby, sai cosa ti dico? Che se faceva passare Dovizioso avrebbe girato più lento, perché girava così, perché era trainato. Sì, però Roberto, questa cosa qui vai da Dallegna, gliela spieghi e gli dici: ma sai cosa ti dico? Hai lavorato male, avete lavorato male, avete lavorato al mare, avete lavorato male al muretto, perché per 6 volte, credo 3 volte al muretto più le mappature, che uscì la richiesta della famosa mappatura 8, 6 o 7 volte in mondo visione Ducati ha dato un ordine al suo pilota e il suo pilota ha fatto quello che ha voluto. Poi dopo ci saranno, non sarebbe cambiato nulla. Io dico, chi si sorprende? Voglio dire, chi si sorprende quando 2 anni fa abbiamo visto succedere cose che oramai tutte conosciamo, e ad esempio qualcuno andare anche contro gli interessi della sua scuderia per fare un gioco differente? In quel caso era Marquez che faceva da valletto a Lorenzo. per fargli vincere il campionato del mondo. La situazione è molto diversa. Situazione diversissima, però diversa. Io da uomo della strada e ti ripeto, ne dibattiamo dalle 2:15 di questo pomeriggio. Il sospetto viene, ragazzi, gli spagnoli sono fatti così. Non è così, Giovanni, ci sono delle regole. Beh, nelle scorse non è così, dal 2015, sai, perdonami, si fa un po' fatica a crederlo. Ma non è così nelle corse, tant'è che hai visto che non se la sono presi gli uomini della squadra di Ducati. Basta. Lorenzo alla fine lo ha veramente aiutato, il Dovi non ne aveva, lo ha messo lui stesso, non c'era questa gara. E sai quando ho capito che la testa lo ha mollato? Quando in ghiaia, a bassa velocità, è andato a terra come un pollo, scusatemi, lui che è un vero corsista e nel fuoristrada va veramente forte, lì è proprio ceduto di testa, ha veramente la pressione lo ha sconvolto e comunque non ne aveva di sicuro non l'ha aiutato vedere la squadra che dava ordine a quello davanti che faceva quello che voleva, no, perdonami, anche a livello di testa diversa. aspetta abbiamo tempo, un attimo. Allora intanto diamo l'aggiornamento sul Gran Premio di Formula 1 San Paolo del Brasile. C'è stato un incidente con il solito Grosjean, sì. Quindi c'è stata la safety car per un paio di giri. Strano. In testa c'è Vettel che ha superato Bottas alla prima curva. Bottas ha un secondo e un decimo, poi Raikkonen a 2 e 3, quindi Verstappen, Massa, Alonso, Perez, via via tutti gli altri, Hamilton che è partito dai box dall'ultima posizione, undicesimo. In questo momento è undicesimo. 8:00:24, quindi seduta aperta, dopo le 17:30 tutto sulla nazionale, ma vogliamo sapere cosa ne pensate anche su questa storia del moto mondiale. Arriva, se ci risponde, arriva un grandissimo, Giacomo Agostini che farà da Cassazione. Traffico, torniamo subito. Convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Addirittura non ci credo, è caduto! È caduto e si è ripreso! Che fenomeno! Lorenzo in terra! È caduto chieto, come vizioso mai! Anche. No, è Dovi! Vabbè, finito. Vabbè, andato. In due giri è successo tutto! Marc Marquez, campione del mondo, sei un fenomeno, Marquez. Caro Dovi, bravo che sei stato. Marquez ha vinto il titolo mondiale, ma siamo felici di aver trovato anche te così. And I'm back with the madness. È stata una gara molto lunga per me. Voleva che anche Dovi finisse la gara perché è stato un rivale molto molto. Ho imparato tante cose da lui, soprattutto mentalmente. Di Dovi ha fatto un gran lavoro. Così questo, quando in un campionato sono piloti tanto veloci come loro, lo fa più interessante. Sono troppo contento di quest'anno, voglio ringraziare il team, la Ducati e tutti gli sponsor perché quest'anno abbiamo fatto un campionato esagerato e grande soddisfazione, è stato un gran bell'anno. È la cosa più bella che mi è successa quest'anno, riuscire a emozionare tantissima gente che ti guardava anche un po' così, non ti considerava più di tanto. Allora, fatemi salutare subito Giacomo Agostini, che saluto e ringrazio. Ciao, grazie Agostini, buonasera. Ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Io ciao, Paolo, Giacomo. Con permesso, sarò contento domani a posteriore, oggi sono incazzato. Non me la levate, domani penserò alla grande stagione che ha fatto Dovizioso, alle emozioni che ci ha dato, a tutte queste cose vere e bellissime, ma ci penso domani, oggi sono incazzato. Giusto così, Giacomo? Beh, Dovizioso veramente ci ha tenuti vivi fino all'ultima gara e quindi lo dobbiamo ringraziare perché ci hanno dato delle grandi emozioni. quindi Richard ha fatto veramente un grande campionato, è stato bravissimo, bravissimo a battere poi un Marquez che sappiamo che oggi direi è il migliore, oggi è il più bravo, quindi non per niente sei volte campione del mondo. A 24 anni, sì. Il che probabilmente lo proietta dentro, direttamente dentro il libro dei grandissimi, no? Possiamo aspettarcelo. Ce lo aspettiamo, sì, perché effettivamente un ragazzo così giovane che sta facendo grandi cose, dobbiamo inchinarci, poi direi che da spettacolo, questa è una cosa bella, cioè che emoziona anche a me che ormai sono abituato, fa delle gare veramente che si emoziona tutti ed è bello perché si viene tutti incollati alla televisione a vedere questo ragazzo che fa delle acrobazie. Ma è anche fortunato o no? Perché oggi abbiamo visto quella caduta. Molto. È fortuna, bravura, che cos'è? Molto. Beh, bravura in questo è successo oggi, che ero ormai per terra e poi no, io credo che non sia bravura, lì è tanta fortuna, perché se fosse solamente bravura allora non cadrebbe mai, se fosse bravura, invece purtroppo e non vorrei questo, è caduto 27 volte, che sono troppe. Sì, questo è vero, sempre con grande fortuna. Io vorrei che Roberto Ungaro si confrontasse con Giacomo Agostini sul tema Lorenzo. Roberto? Giacomo, allora Giovanni e Carlo fanno un po' il processo a Lorenzo dicendo che è inammissibile dopo le segnalazioni che non si sia fermato. Io ho sostenuto che secondo me non ne aveva dovizioso e quindi anzi è stato utile all'inizio stare dietro perché gli ha fatto la linea come lui stesso ha ammesso, e se l'avesse fatto passare non avrebbe avvicinato gli altri, perché oggi purtroppo non ne aveva, gli altri facevano troppo la differenza. Giacomo, cosa dici? Sì, sono d'accordissimo su tutto quello che hai detto, effettivamente. Anche il fatto della polemica dell'ordine, no, non ordine. Non cioè, c'è, l'ordine, non c'è. Vabbè, lo rispetti se tu chiudendo dai la possibilità di vincere, ma oggi anche chiudendo purtroppo era difficile. Ma allora mi state dicendo che la Ducati ha sbagliato tutto, cioè si è esposta a una figuraccia. No, cioè, se per tanti giri gli danno un ordine, allora non ha fatto perché? Perché? No, assolutamente no, perché ne aveva di più Lorenzo, era distante troppi metri, non lo sentiva neanche. Se Dovizioso si fosse fatto sentire mezza moto su mezza moto, o se fosse sentito il suo motore, allora Lorenzo sì, si sarebbe fatto la parte, ma lì non poteva. Cioè, poi l'ha ammesso anche Dovizioso, esatto, non è che l'ha ammesso anche Dovizioso, che purtroppo era dura oggi e non ce l'aveva. Quindi non era giusto che Lorenzo chiudesse per niente, perché nel senso che doveva sì rispettare gli ordini, se chiudendo nel caso sarebbe diventato campione del mondo. Esatto, ecco. Ma non è cambiato nulla. Pedrosa è stato diverso, perché pronti via, la situazione è diversa, non c'è strategia da muretto. Ha fatto veramente la guardia, è stato bravissimo, perché certo, ha chiuso la porta, non lo discute nessuno. Ma è una situazione completamente diversa. Vabbè, ma allora fatemi capire, ma perché allora Ducati ha dato quell'ordine a Lorenzo se le cose ma stanno così? Ma perché ci provi comunque, lo fai, perché metti che davanti magari cadono, allora sei già pronto lì. Ma oggi contro Zarco non ce n'era, Dovizioso ne aveva meno. No, ma contro anche Marquez non ce n'era. E Marquez, ma non ce n'era assolutamente. Perché se hai la forza passi e vai a prenderti. Non è esatto, che perché hai un pilota davanti che non riesce ad andare a prendere il primo se hai la forza. È solo che purtroppo me l'ha messo anche lui, Dovizioso è stato molto onesto. Dovizioso è stato molto onesto, forse sicuramente, politico certamente, altrettanto certamente. Io credo che oggi Dovizioso abbia parlato da caposquadra, cosa che è stato poi tecnicamente anche durante tutto, stipendio a parte, durante tutta la stagione, questa certo, almeno è stata la sensazione, non so se la condividete. È stato il numero uno con meno soldi. Ma a volte succede così nelle corse, è stato onesto come lo è sempre, perché ammette la sua inferiorità in certi frangenti. Contro un Marquez così non c'è niente da fare. Oggi è stato il riassunto di una stagione, perché Marquez è inutile girarci attorno, è più forte, è fortunato, è vero, ma lui sa solo guidare così, guida anche così perché la Honda non fa più la differenza, guardiamo dove sono le altre Honda, e quindi... Però ferma, perché l'altra Honda ha vinto oggi. Oggi sì, andiamo oggi piano. Con Dani a Valencia... Quindi io non sono d'accordo sul fatto che dicano che la Honda guardiamo non va, la Honda va anche la Honda. Tutta la stagione, se guardiamo in tutta la stagione, facciamo una media, le altre Honda sono molto lontane, la differenza sì, la fa Marquez. Perché lui è bravo. però esatto. Quando non hai, se, oggi se non hai anche la moto che ti aiuta il pilota, certo. Io credo che valga ancora un po' di più della moto, non è come in Formula 1, però insomma devi avere anche la moto, perché con questa tecnologia se non hai la moto è difficile. Beh, lo parametri sul campionato di Pedrosa, giusto? Sì. Quindi... Sì, poi Pedrosa naturalmente non è un grande talento, adesso mi dispiace dirlo, per una persona squisita, lo conosco, però non è Marche, insomma. D'altronde i grandi talenti io non nascono tutti i giorni, ecco, noi vorremmo perché sarebbe più bello. Però i Maradona, i Eddie Merckx, i grandi gli Agostini e i Valentino, gli Agostini, i Valentino, vedi che Valentino, Valentino è durato 15-20 anni, insomma. Esatto. Dovizioso che cos'è? Dovizioso che cos'è? Come lo classifichiamo, Giacomo? Beh, quest'anno ha fatto un campionato da grande campione, effettivamente. Ha fatto delle gare meravigliose ed è riuscito addirittura ultimo giro, ultime curve, a superare e a battere un Marquez, quindi che sappiamo chi è Marquez. Quindi quest'anno Dovizioso dobbiamo anche a lui veramente dare atto che ha fatto un grande campionato. Chissà, chissà cosa gli è subentrato quest'anno, che è riuscito a fare delle cose che forse prima non riusciva a fare. Aveva in squadra Lorenzo e ha capito, quando l'ha battuto, che poteva non essere più un numero anche, più, secondo me. Anche, e psicologicamente anche, si è sbloccato. Possibile. E guardando anche, la proiezione, adesso che è finito il campionato... Abbiamo un minuto, se ci date la risposta sull'anno prossimo. E ve la butto lì. Honda deve tenersi stretto, Marquez, però notoriamente Honda non ha grandi ingaggi. Poi ha grandi premi gara, quello sì. L'unica motivazione per Marquez in futuro potrebbe essere quella di vincere con un'altra moto, e io vedo molto molto aggressiva KTM con quel grande sponsor che ha, contro cui c'è poco da fare se dovesse fare un'offerta, e allora quello potrebbe essere il futuro di un Marquez, con una KTM che se lo accaparrasse potremmo veramente vedere. Però dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché con tutto il rispetto che abbiamo, che dobbiamo avere per la KTM, però la Honda è la casa più grande al mondo. La Honda fa 12 o 13 mila moto al giorno, è una potenza. Però sai quanto è aggressiva KTM? Il fatto stesso che abbia deciso di scendere in Moto2, l'unica che accetta di correre con un motore non proprio, cosa che se faceva l'Aprilia a suo tempo, oggi non sarebbe l'Aprilia che abbiamo, e accetta questa cosa, e tutti passano al concetto che vince la KTM, anche se il motore è Honda. Quindi come strategia, come marketing, è vincente. Funziona. Oggi ragazzi, corse, è bellissimo, ma è finito il tempo. Oggi ragazzi il reparto corse, l'R&D, progettazione corse, sono 300 persone, ce l'ha neanche la KRC questo numero. Cioè, è questo per farvi capire dietro le quinte come sta mettendo giù i piani. Come dicono quelli bravi, lo scopriremo solo vivendo. Noi sarebbe sufficiente sapere che il 2018 Dovizioso ci fa godere come quest'anno. E comunque questa stagione, ragazzi, non c'è niente di più bello dopo il Big Bang di questa stagione. Assolutamente. Allora, ciao, io ringrazio Roberto Ungaro. Che tanto ci risentiamo presto. Saluto e ringrazio anche Giacomo Agostini. Grazie a voi. Ciao, vi dico che da casa arrivano messaggi, però, che insomma su Lorenzo hanno giudizi diversi dai loro, ma noi abbiamo, ci teniamo, abbiamo fatto parlare migliori. Andrea da Modena, 800 24 00 24, vai Andrea. Buonasera a tutti. Dai. Ecco, io rispetto assolutamente quanto detto da Grande Agostini e da Ungaro, perché sono degli esperti. Io però vorrei fare una diversa chiave di lettura su quello che è stata la direzione sportiva della Ducati. Sono anni che vediamo delle cose allucinanti, vedi anche l'anno scorso Iannone Dovizioso, e credo che in una gara come questa, premetto che secondo me era impossibile vincere, però non posso trovare una situazione del genere, cioè o mi metto d'accordo con i piloti e se Lorenzo riesce a tirare Dovizioso va su avanti e va a disturbare Marquez e lo tira, oppure allora vorrebbe dire però che non devo mettere poi il cartello della mappatura 8. È evidente che non riescono a controllare Lorenzo, probabilmente c'è ci saranno dei problemi, sì, c'è un'incongruenza, dei problemi di contratto e per qualcosa. Carità, è quello che continuiamo a dire. E allora perché la Ducati per 3, 4, 5 giri è andata avanti con quella mappatura e con quei cartelli? Aspetta, dobbiamo fermarci Andrea, prego. Dobbiamo fermarci perché siamo già lunghi. Grazie però ad Andrea da Modena. Credo che però se ne tornerà pensiero. A parlare, sì, se ne tornerà a parlare pensiero. Perché effettivamente il controllo che può avere la Ducati su Lorenzo è un tema, e oggi dopo questa stagione Dovizioso io credo l'anno prossimo debba partire da capo squadra, stipendio a parte, quelli sono affari suoi, ma anche in questo tipo di scelte di controllo della scuderia. Allora ci fermiamo, 20 giri Vettel, Bottas, Raikkonen, questa è la classifica del Gran Premio del Brasile a San Paolo. Hamilton è risalito fino alla 7ª posizione e quindi sta piano piano rimontando, ricordiamo che è partito ultimo, 8-0-0-24-0-0-24. Adesso apriamo la lunghissima pagina dedicata alla vigilia d'Italia-Svezia. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20, manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Convocati. Messaggi ce ne sono pochi da dare a parole, sono messaggi da dare sul campo, forti, che devono trascinare la gente a portarci a questa piccola impresa. Le parole ormai le abbiamo adoperate tutte in questi giorni e adesso penso che sia arrivata l'ora dei fatti. A fine partita ho solo detto che poteva essere gestita in maniera leggermente più corretta. Certo che se uno gioca con la maschera, con la frattura del naso, è evidente che un minimo di dispiacere per quello che è successo, ma questo fa parte del gioco. Siamo in Italia, è una squadra che deve giocare a calcio e se si qualifica lo fa giocando a calcio. Questo non significa che la Svezia non lo faccia, c'è grande rispetto, mi auguro solo che ci sia grande correttezza. Ancora Buffone Ventura, oggi vigilia di Italia-Svezia, il giorno, anzi la notte del giudizio. Pier Augusto, no, che Pier Augusto, Pierluigi Pardo, ciao. Pier Augusto, Pier Augusto Staggi. Pier, ci sei? Adesso lo recuperiamo, adesso lo recuperiamo. Ah no, eccoti. Questa è una gag. Questa è una gag. Sì. Ma è il nostro Paolo Corleone che ha la tua, certo, quella di Ventura è una gag, scusami. No, tutte e due, abbiamo due gag a confronto. Però insomma, stiamo provando con il codec, se ci dovesse essere problemi. No, ti sentiamo meravigliosamente. Mi sembra che si sia ricompattato tutto. Dai, mi sembra che si sia ricompattato tutto. Adesso comincia a me sembra di no, però adesso ne parliamo anche. No, io credo che la squadra sia arrabbiata, credo che ci sia grande voglia di fare una grande partita, è ovvio che nel paese c'è grande dibattito, giustamente. La situazione, il paese mormora. A un passo dall'apocalisse siamo, però... Ma secondo te, Pier, così riallacciamo il tema che aspettare. Sì, che avevamo aperto alle 5. Aspetta. Secondo te... C'è stata un po' di esagerazione di critica su Ventura, non perché la partita di venerdì non sia stata ampiamente al di sotto di quello che ci si poteva aspettare, però ad altri CT in passato alcuni alibi sono stati concessi, cosa che a Ventura mi pare non sia stato concesso. Cioè, quando lui dice siamo anche stati un po' iellati quando parla dell'arbitro, e insomma sì. L'arbitraggio non è stato buono. Mi pare che Ventura goda di pessima stampa. Ma che senso ha appellarsi all'arbitro dopo una partita così? Scusa, Pier. Sì, no, adesso parliamo dell'arbitro. La cosa secondo me è molto semplice. Da quando io mi occupo di sport, come diceva Nanni Moretti, ho visto dei CT che avevano, diciamo, un pedigree, una storia, una credibilità di un certo tipo, top, diciamo, e altri che non ce l'avevano. Ai primi si è perdonato molto di più di quello che si è perdonato ai secondi. Io ricordo le polemiche nei confronti di Donadoni, ad esempio. Donadoni sbagliò clamorosamente la prima partita all'Europeo di Svizzera e Austria con l'Olanda, siamo stati presi a pallate, poi abbiamo passato il turno, poi abbiamo perso ai calci di rigore contro una squadra che da quel momento ha dominato tutto, che è la Spagna, e Donadoni comunque ha lasciato la nazionale come se fosse stato un brocco. Sì. Lippi, giustamente, dopo quello che ci ha regalato nel 2006, di fronte al fallimento del 2010, sì, ma questo è il destino dei CT ed è la cosa. Aspetta che intanto allargo il dibattito, no? Anche ad Antonello Valentini, che dei CT ne ha conosciuto qualcuno. Ciao Antonello, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao. Grazie dell'invito. Gode gode di pessima stampa avventura o si sta meritando tutto? Dai, sbilanciati. Ma guarda, parte della responsabilità è sua se gode di una stampa non favorevole, devo dire, perché lui aveva iniziato, secondo me, in maniera sbagliata il rapporto con l'opinione pubblica e con i media. Io gli ho anche detto di persona, perché ho fatto tanti anni in nazionale, e mi pare che si sia calato male o non si sia calato per niente del ruolo del commissario tecnico, e probabilmente qualcuno vicino a lui avrebbe dovuto aiutarlo a capire dove stava. L'ho già detto una volta e lo ripeto: quando si sta sul pennone più alto tira vento e fa freddo, e quindi impermalosirsi, impettirsi anche quando si gioca male, come è capitato in Spagna e con la Macedonia, secondo me è sbagliato. È sbagliato. Poi i CT che sono stati insultati, ma insultati non è una parola così avanza. Ce ne sono tanti. Voglio fare una precisazione su Donadoni, perché vi ho sentito, è andato via. Tecnicamente Donadoni aveva il contratto in scadenza, quindi il contratto non gli è stato rinnovato, nessuno lo ha esonerato tecnicamente. La sostanza non cambia, intendiamoci. Non vorrei Antonello, ho accusato di ingenuità. Scusami, non ho detto che l'avete esonerato, ho detto che da quando più o meno mi occupo di calcio ho visto commissari tecnici che avevano una credibilità, una forza, un'abitudine da vincenti, come per esempio Antonio Conte, ma giustamente conquistato sul campo, e altri ai quali noi, mi ci metto anch'io, noi giornalisti abbiamo, diciamo, perdonato un po' meno. Secondo me a Donadoni, vi ricordo una famosa conferenza stampa prima della seconda partita dell'Europeo, l'abbiamo sfondato, mi ci metto io, non tanto, ma insomma voglio dirti, la stampa e la critica, ma è abbastanza normale. Sì, lì c'era anche un fantasma che aleggiava alle spalle, quello del ritorno di Lippi a furor di popolo, cosa che Donadoni ha sempre sofferto. Che è mancato invece Ventura. Però voglio dire, è quella la figura, secondo me, di commissario tecnico che serve, cioè quello che riesce ad essere più forte di certe critiche, oppure che ha un consenso maggiore, o un mettiamo peso politico, peso sull'opinione pubblica maggiore. Cioè è quello il prototipo del commissario tecnico, non è quello del vaso di coccio, no? Sì, prego Antonelli. Delle critiche, delle aggressioni giornalistiche, intendiamoci, che hanno subito Sacchi quando è arrivato in nazionale, perché spaccava l'Italia dopo il Milan che aveva vinto in tutto il mondo, quindi sacchiani, antisacchiani, Zoff, Cesarone, Maldini, lo stesso Lippi. Voglio dire, abbiamo passato dei momenti veramente pesanti nei rapporti con i giornalisti, con i mezzi di informazione. Adesso bisogna anche meritarsela un po' poi la fiducia, perché tutto sommato quello che ha meno esperienza internazionale di tutti in quel ruolo è proprio Ventura, che di partite internazionali credo ne abbia fatte tra le 7 e le 10 in tutto, di cui quasi tutte con il Torino in Europa League. Quindi voglio dire, bisogna essere anche consapevoli un attimo. Sì, però quando... Pierluigi Pardo prima ha detto una cosa centrale, Antonello, tu non l'avresti preso. No, però perdonatemi, adesso Antonello Valentini ci dice se l'avrebbe preso. Però Antonello Valentini ci dice anche, con grandissima onestà intellettuale, se invece il piano magari Ventura più Lippi sopra a fare da cappello e ad aiutarlo in questa cosa era probabilmente una soluzione che ci avrebbe regalato un CT meno fragile in questo momento. Antonello, guardate, il ticket, come tu stesso hai detto, era quello Lippi Ventura, anzi ti dico di più, che era stato proprio Lippi, sapendo di dover svolgere lui il ruolo di supervisore, per così dire, a suggerire Ventura, e sarebbe stato secondo me il ticket ideale, perché Ventura avrebbe avuto le spalle un po' più coperte, avrebbe avuto anche più tempo per capire dove era arrivato, avendo vicino un uomo come Lippi. Però voglio dire, detto questo, adesso io mi accusano di essere, a casa mia mi accusano sempre di essere troppo razionale. Io per una volta voglio essere irrazionale. Faccio una mozione degli affetti da tifoso, forza azzurri, andiamo ai mondiali, ribaltiamo questo domani sera questo risultato, luci azzurre a San Siro per ricalcare la splendida canzone di Vecchioni, dopodiché avremo il tempo, in un caso e nell'altro, di fare tutte le critiche, le analisi, gli approfondimenti che volete. Tra l'altro Lippi è saltato perché la federazione si era dimenticata di dover applicare una regola che la stessa federazione aveva fatto qualche mese prima, non ce lo dimentichiamo, perché poi bisogna dire le cose fino in fondo. E qualcuno le ha ricordato, sempre per colpa dei giornalisti. Si è trovato un po' esposto, e secondo me troppo esposto, senza un, come dire, un contado, senta un'adeguata copertura. Aspettate un attimo, abbiamo il traffico. Io chiedo a Antonello Valentini di fermarsi ancora un minuto ed aspettare, perché poi torniamo anche su quello che scrivono oggi i giornali, qualcuno in maniera esplicita facendo un nome, altri tra le righe, compresa la Gazzetta dello Sport, e cioè su che cosa succede non tanto in caso di eliminazione quanto in caso di qualificazione al mondiale. 32 giri a San Paolo. In testa in questo momento c'è Hamilton, poi Vettel, Bottas e Raikkonen, ma siamo nel mezzo delle soste per il cambio gomme. 800 24 00 24, voglio sapere anche da voi a casa, se ci qualifichiamo e la sfanghiamo in qualche modo, chi va al mondiale, Eli Ventura o qualcun altro? Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Per i fischi, per le critiche, tutto c'è spazio dal novantesimo in poi, e ognuno di noi sa che deve avere l'umiltà e il senso di responsabilità di accettarli. Finché c'è partita, finché c'è speranza, finché siamo lì a batterci, è chiaro che il sostegno e un atteggiamento propositivo da parte del pubblico ci potrebbe dare veramente una mano. Questo ancora Buffon oggi. Allora leggo rapidamente alcuni messaggi che stanno arrivando via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Scrive un amico: siamo spacciati se anche noi non troviamo il nostro Messi come l'ha trovato l'Argentina. Secondo me l'Argentina ha qualcosa di più a prescindere da Messi. Poi Max, cui faccio notare che l'Italia non è ancora eliminata, però lui scrive: l'eliminazione dell'Italia ha radici molto lontane, non si dica della qualità bassa della rosa, però, perché l'attuale gruppo non è così scarso. C'è chi segnala che la Svezia non sarà il prossimo campione del mondo, e io resto convinto che l'Italia sia più forte della Svezia, dobbiamo mettercelo in testa in attesa di domani sera. C'è chi dice che ha ragione Carlo Genta quando dice che Ventura non dovrebbe essere nemmeno il CT in panchina domani sera, la sua avventura si sarebbe dovuta concludere almeno venerdì a Solna. E insomma, questo è un po' lo spaccato dei messaggi che stanno arrivando. E allora lo scenario, lo giro a tutti, chi tra le righe, chi in maniera chiara lo ha scritto: anche in caso di qualificazione ci sarà un regolamento di conti tra lo spogliatoio e Ventura con la federazione. Qualcuno scrive chiaramente, credo La Stampa, però sto andando a memoria: guardate che per il mondiale in realtà il CT potrebbe essere Ancelotti. È uno scenario credibile, Antonello Valentini? Non dico giusto, dico credibile. Guarda, a me risulta che Carlo Ancelotti non ci pensi proprio ad accettare un'ipotesi di questo genere, però ovviamente posso sbagliare, ci sono tante leve che possono convincere Ancelotti. Io però ritengo, lo dico con grande onestà e con grande franchezza, che chi si qualifica in mondiale ha il diritto di giocare in mondiale. Però in questo caso ci sono tanti se e tanti ma e tanti però. Non vi dimenticate che la federazione ha fatto, secondo me, benissimo mesi fa a prorogare il contratto di Ventura fino al 2020, salvo ovviamente le clausole di rescissione in caso di mancata qualificazione, per dargli più forza e più credibilità con la squadra. Questa forza e questa credibilità io credo che siano abbastanza incrinate, e ricordo, io l'ho detto allora e lo ripeto adesso, che sarebbe stato inammissibile con qualsiasi altro commissario tecnico una riunione dei giocatori come esatto. È stata fatta qualche settimana fa, senza il commissario tecnico. Allora, ragazzi, chiariamo un punto, sì o no? Intanto Torello sì. Valentini ci ha dato una notizia, poi gliela faccio ribadire, prego. Bene, Carlo. Allora, chiariamo un punto, sì o no vale per tutti e quattro noi che stiamo parlando, oltre che per gli ascoltatori. È chiaro che Ventura se non va ai mondiali va via la sera stessa. Facciamo l'altro scenario. Benissimo. L'altro scenario è: si va ai mondiali, ci andiamo con Ventura o no? Secondo me no. Pier? No, secondo me, io condivido la posizione di Antonello, cioè credo anch'io che poi alla fine Ancelotti siamo tutti qua a dire che automaticamente accetterebbe, ma in realtà mi risulta il contrario, anche se da un certo punto di vista. Ma Piero, al di là dell'alternativa. Non è al di là dell'alternativa. Ho capito, no, però ragazzi, questa situazione, lo diceva anche Antonella. Allora, Capello si è sfilato oggi con un'intervista. Quindi, per me, diciamo, per me dei grandi padri, togliamo Capello. È un tema, perché capisco che adesso il gioco sia quello di far sembrare Ventura il più scarso allenatore della storia del mondo, ma non è così. Ventura non è il più scarso allenatore della storia del mondo, è probabilmente un allenatore che si è incartato per una serie di meccanismi di fronte a un meccanismo e a una storia troppo grande rispetto a quella che è la sua esperienza. Per cui il fatto dell'alternativa non è un dettaglio, perché se il signor Carlo Ancelotti dicesse di sì è un conto, ma se il signor Carlo Ancelotti dice di no e dobbiamo andare a prendere un altro allenatore del livello di Ventura, andiamo ai mondiali e siamo tutti contenti. Antonello Valentini, facciamo per tutti i mondiali le riunioni con Ventura fuori dallo spogliatoio e Buffon che decide la formazione, parliamoci anche qui molto chiaro. Ma la cosa va risolta, chiarita, ma non è che va risolta e va chiarita automaticamente cacciando l'allenatore. A parte, ragazzi, non dimentichiamo, cioè, domani non è un dettaglio, domani è una partita che cambia il destino in un senso o nell'altro. Cioè, se l'Italia domani, Dio lo volesse, fa una grande partita, molti dei problemi si risolvono, che abbiamo scherzato, che non c'è stata Spagna-Italia, che non c'è stata Svezia-Italia, ma vorrebbe dire che si può ripartire con un chiarimento forte, preciso, all'interno dello spogliatoio, ma anche con la federazione, se va a finire bene, poi dopo le cose si aggiustano. Antonello, sei di questa idea? Ma io sono di questo avviso. Bisogna però, come dicevate voi, fare chiarezza fino in fondo e deve cominciare a fare avventura innanzitutto con se stesso e con le proprie idee, perché non ci dimentichiamo, ragazzi, che noi siamo andati in Spagna a fare una scelta tattica disastrosa. Allora, quando Insigne gioca all'altezza dei mediani se non dei terzini, quando De Rossi e Verratti vengono buttati in due in mezzo a un centrocampo come quello spagnolo, i giocatori sono i primi che si sentono danneggiati, esposti, male utilizzati. Certamente non sono contenti di tutto questo, quindi anche Ventura, che ha un compito dall'inizio difficile, quello cioè di procedere gradualmente a un ricambio generazionale che è quello delle carte d'identità di tutti, parliamoci chiaro. Però secondo me in questo momento, voglio dire, sarebbe un errore per esempio lasciare fuori De Rossi. Non sta giocando benissimo, nella Roma non è al meglio delle condizioni, ma De Rossi ha un cuore grande così, ragazzi, per la nazionale ha sempre fatto bisogna ripartire da quegli domani sera ci sono almeno 5-6 giocatori. Buffon che deve stabilire il titolo mondiale di 6 campionati del mondo che non ha nessun altro. Sì, ci sono lo stesso De Rossi, voglio dire, che si giocano le loro ultime chance di carriera e non vogliono certamente chiudere il loro curriculum con una mancata qualificazione che non si verifica da 60 anni. Che macchia la carriera. Allora, io vi fermo, Pierluigi Pardo ovviamente resta con noi anche dopo il GR delle 18. Abbiamo 20 secondi, voglio solo un sì o un no. Antonello Valentini ci ha detto prima che nel contratto di Ventura c'è la clausola che in caso di mancata qualificazione porta alla rottura del contratto, perché è uno dei temi che si sono stati scritti in questi giorni, cioè quel contratto comunque Ventura non lascerebbe lì i soldi, ma se lo vorrebbe tenere. Ci hai detto questo, Antonello? Tenga se l'Italia va fuori, non c'è contratto che tenga. Però un conto se è oneroso o no per la Federcalcio, perché questo è uno dei temi sollevati. Non sarebbe sostenibile. Va bene, allora ci fermiamo qui. Grazie ad Antonello Valentini. Pier torna con noi, 800 24 00 24. Hamilton in testa. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. Tutti convocati. Di testa di Toivonen, la conclusione, la deviazione, no! Passa in vantaggio. c'era un gol di Johansson, ma è stata decisiva. È la prima volta che sono arrivati in area di rigore nel secondo tempo, ma guarda te. Si poteva fare di più e meglio, ma è una partita in cui c'è stata da una parte la fisicità loro, però c'è stato praticamente neanche un tiro in porta contro l'Italia. Mi auguro che San Siro ci dia una mano e ci, a San Siro ci permettano quello che hanno permesso loro qua. Stai parlando quindi dell'arbitraggio? Parlando in generale, spero di parlare un italiano corretto, quindi ho detto delle cose, sono esattamente quelle. Ci hanno permesso 7-8 scontri che non hanno niente a vedere con il calcio, hanno permesso una perdita di tempo incredibile, hanno permesso di tutto e di più. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. È una partita che probabilmente ai punti sarebbe finita pari, e se ti fosse girato meglio magari avresti potuto anche vincere. Adesso è il momento proprio di stare belli compatti, belli determinati insieme, e lo scarica a barile a 3 giorni della partita più importante della nostra storia non esiste. Essere più bravo l'arbitro nel fermare subito la loro voglia di metterla sulla rissa, perché quella è stata. Serve la partita della vita o una partita di testa? Servono tutte e due, la partita della vita con testa, perché è troppo importante. Allora, questo è un insieme di voci non di oggi, ma di venerdì e di quello che è successo dopo, perché quelle parole del dopo gara hanno aperto altre discussioni, altre critiche, oltre a quelle tecniche e tattiche sul campo. Ventura è stato ancora più attaccato, al di là della questione tecnica. Adesso ci colleghiamo con un grande ex azzurro per quello che ci ha regalato in campo, ma anche grande ex azzurro per quello che ci ha regalato sulla panchina, e quindi sa benissimo cosa significa subire la pressione del commissario tecnico di cui parlava anche prima Antonello Valentini. Dino Zoff, buonasera. Ciao Dino. Eccoci. Allora, che consiglio si può dare a Ventura, che oggi ha detto, che oggi ha detto gli allenatori fanno di testa propria? Voglio sperare che facciano di testa propria, se no gli allenatori sono. Questo mi sembra ovvio. Ma l'importante è non dargli capitale importanza a quello che si dice, le critiche ci sono. Ci sono sempre state, a dire la verità, le critiche da adesso mi fanno ridere in confronto a quello che ha ricevuto Berzotto. Quindi non c'è, certo la partita è importante, ci teniamo tutti particolarmente, e di conseguenza chi gioca è l'allenatore più degli altri, però insomma non ha della vita, insomma, allora se dovessero giocare il mondiale, la Coppa del Mondo, cosa sarebbe oltre vita. Però mi confermi, Dino, che Berzot, che hai conosciuto meglio di chiunque altro, hai conosciuto profondamente, non sarebbe rimasto fuori dalla porta di quello spogliatoio, non avrebbe subito probabilmente le pressioni di un gruppo che ha influenzato comunque le scelte del commissario tecnico. Ma questo io non lo so se è vero, anzi faccio mettiamo che fatica. Sia vero, perché è vero. No, mettiamo che sia vero. È vero. Lo dici tu, certo, io non posso considerarlo vero, perché insomma non credo che l'allenatore senta le pressioni dei giocatori o eccetera. Credo che deve avere la personalità per portare avanti le sue idee con convincimento, con determinazione, anche con una certa durezza se vogliamo, perché ognuno ha il suo ruolo, insomma i giocatori devono pensare a giocare bene, poi dopo le responsabilità sono degli altri. Sì, se le prende l'allenatore. Allora, abbiamo recuperato anche Pierluigi Pardo, che ritroviamo dentro la trasmissione. Io vorrei sapere da Dino Zoff, però oggi sono le 18.13 e della notte prima dell'esame, cioè come si vivono queste vigilie qui? Cosa deve fare Ventura oggi? Al di là, come ha detto lui, di non sentire i consigli, di decidere con la sua testa, di rivendicare il cammino che ha fatto, di rispondere. Cosa deve fare? Ma non deve rivendicare niente, deve pensare alla partita, di superare questo scoglio e quindi trovare le parole giuste, o per caricare o per tranquillizzare una squadra con imprimendo movimenti chiari e tutte le solite cose che si fanno. Poi certamente, come dicevamo prima, la partita è importante e magari la tensione c'è, l'adrenalina ancora di più, però fa parte dello sport, del mondo, della vita, insomma. Pier, con chi te la giocheresti? Ciao Dino, con Insigne deve giocare? No, guarda, io non voglio entrare nell'ambito della non vuole iscriversi alla lista di quelli che danno consigli. Questo lo tengo, l'ha già fatto, quindi. E quindi non voglio proprio, ci penserà Ventura. Lui, no? certo. Spero che ci pensi bene. Sì, ma danno un po' fastidio i consigli degli ex quando si è lì su quella panchina? Dai, svelaci, insomma, questa cosa. Ma sì, degli ex sì, ecco, magari uno che, diciamo, uno che fa la critica, un giornalista, in media, è nella normalità, insomma, quando è un altro. Hai capito? Degli ex, insomma, non è fanno piacere, poi non cambia niente. No, tra l'altro tu hai avuto anche adesso, ricordiamo l'episodio, hai avuto una critica dopo la partita. Era oltre la critica, c'erano tante altre componenti. Ha ragione chi dice, e io lo sostengo e lo penso, al di là di quello che abbiamo visto a Stoccolma, che dobbiamo metterci in testa che però siamo superiori a questa Svezia, quindi via la paura. Ma guarda, se tu dici che uno si deve sentire superiore, uno va in campo per vincere, deve avere la convinzione di vincere, non deve pensare di essere superiore, deve avere la convinzione di battagliare e possibilmente vincere. Come va? Se uno va già con l'idea, poi dopo noi italiani, per l'amor di Dio, se uno pensa già di essere superiore, partiamo con i pennacchi, prendiamo fuori via scornati. Le partite, le difficoltà ci sono sempre, e quindi l'importante è avere quella convinzione intima di poter fare, ma non di sentirsi superiori. Io ho un'ultima domanda da fare, poi abbiamo anche il traffico, ed è questa. Ha detto Ventura, e si dice un po' in queste giornate difficili, arriviamo al mondiale e poi lì cambierà tutto, cambierà la testa, cambierà l'approccio, spesso cambia anche il modo di giocare dell'Italia. È vero o ci stiamo illudendo? Ma no, non so, insomma, io certamente uno andando avanti ha la possibilità di lavorare di più e quindi di chiarire meglio le cose, però non è che può cambiare tutto, insomma, non è che vai a giocare a pallamano ai mondiali, vai sempre a giocare al calcio e con le tue idee, con i tuoi modi, certo, avendo più tempo e più possibilità di farti capire chiaramente la tua idea, il tuo modo di interpretare il calcio. Sì, però se i limiti ci sono restano, è uguale, se i pregi ci sono, magari riesci ad esaltarli, ma quelli sono. Ringrazio Dino Zoff. Ciao Dino, grazie. No, guarda, vai. Che sono abbastanza, sono ottimista. Sì, beh, ci manca. Beato te. Beato te. No, noi semplicemente rifiutiamo l'idea di essere eliminati, quindi questo è il nostro punto di partenza. Proprio non l'accettiamo. Grazie Dino Zoff. Ciao. Traffico, torniamo e vediamo anche le ultime sull'Italia. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Lei ascolta i consigli? Beh, per ascoltarli tutti mi ci vorrebbero dei mesi, sinceramente. Cioè, non ho tutto questo tempo. Capisco perché l'Italia è così e mi hanno spiegato quando sono arrivato che funziona così. Non pensavo un così così grande, ma comunque funziona così. Gli allenatori che ricevono consigli li ascoltano, li analizzano, ma poi è evidente che se uno fa l'allenatore decide di testa sua. Avete capito, no? Non pensava un così così grande, sapeva che era così, ma non si aspettava un così così. Povero Venturone, dove vive? Allora, 11 giri alla fine del Gran Premio del Brasile. A San Paolo, Vettel che è leader con 2,5 secondi su Bottas, poi c'è Raikkonen con Hamilton a distanza di sicurezza circa 4 secondi, quindi Verstappen, Ricciardo e via via tutti gli altri, settimo Massa che corre l'ultimo Gran Premio sulla pista di casa. Allora, carissimo Luigi Pardo, salutiamo Monica Vanali. Ciao Monica. Ciao. Ciao ragazzi. Facciamoci dare le ultime, dai, facciamoci dare la formazione, perché ho visto che anche oggi. Facciamoci dare un po' di speranza. No, ma la speranza noi siamo oltre, l'abbiamo spiegato prima. Noi non prendiamo nemmeno in considerazione l'idea che non si vada ai mondiali. Io sì. No, Mi lasci il mio pessimismo. Siccome anche oggi mi pare di aver capito che in conferenza siete stati abbondantemente distanti al tema formazione. Ha detto cambieremo qualcosa. Devono ancora, guarda, non ti dico che è in alto mare, anzi non vi dico che è in alto mare. Di sicuro quasi al 100%, facciamo 90 dai, 100% è una battuta, al 90% De Rossi non ci sarà perché non è al 100% lui come condizione, non ci sarà Zazzaro, non ha giocato neanche la gara della Natale infortunato, Spinazzola non sta bene. Pelotti non sta benissimo, devono giocare quelli che sono più in forma e quindi si tratta di capire se quasi certamente terrà fuori Jorginho, non lo farà giocare neanche lui dal primo minuto. Stiamo, vi dirò, cercando di capire anche noi, non perché Ventura non abbia le idee chiare, perché era talmente blindatissimo il ritiro di Appiano Gentile che pian piano, un pezzettino alla volta, naturalmente come ben sapete, si cerca di chiamare un giocatore, si cerca di chiamare quell'altro, se ti risponde non ti risponde, insomma tutta una serie di 007 cerchiamo. Monica, ma ce n'è 11? Ecco, bravo, questa è la domanda, perché già mi hai detto questo no, ce n'è 11, esatto. Che giocano? No, ce n'è 11 che devono essere in forma. Ma come però? Che devono essere veloci. Cominciamo da perché? Dove? Ecco, diciamo a capire se ci sono. Bonucci con la mascherina, con la frisetta. Ragazzi, cuore, grinta e mondiale che bisogna conquistare. No, però al di là di cuore e grinta, io adesso per carità, poi io sarò un maniaco dei numeri, io voglio sapere se la formula giusta è 3-4-3 o 4-2-4 o 4-3-3 o 3-4-1-2. E anch'io rimanevo dei numeri, voglio sapere se ce n'è 11 perché non mi risulta. No, ci arrivano 11, c'erano 27, perdonate. Uno c'ha la mascherina, l'altro sta male, l'altro è zoppo, l'altro è cieco. Per quanti la Vanali ne abbia seccati fuori, a 11 ci arriviamo. Non li ho seccati io. No, mica tu, è la cronaca, Monica. No, allora, di sicuro il 3-5-2 di Contiana memoria, che abbiamo visto anche a Solna, non ci sarà. Lo seppelliamo. Io sarei per non seppellirlo, però non è il sistema di gioco che piace a Ventura. Dobbiamo 4-2-4, 3-4-3, guardate, io dico sempre una cosa, contano i giocatori in forma, domani sera basta con questi sistemi di gioco, i numeri, che tanto poi la gente a casa non si capisce un tubo, voglio dire, e anche nemmeno, tante volte anche noi, siamo noi giornalisti, ci riempiamo la bocca con 3-4-3, quello. Fondamentalmente dobbiamo sapere chi va in campo, chi gioca, chi ha grinta, chi scende e dà il massimo, perché c'è un mondiale, cioè questa non è un'amichevole, una partitella così, basta. E poi intanto anche noi alzare i gomiti domani, non da bere naturalmente, ma non si dice, si fa, ma non si dice. Si fa, esatto, e va, vedrai che lo faranno, dai. Pier, sei tranquillo dopo aver sentito le ultime? Tranquillo, come gentile Monica, e questo mi basta. Tranquillo non sono, perché è ovvio che mi sembra, insomma, che Monica ci confermi che non è che proprio c'è una grande certezza, anzi, l'esatto contrario, cioè siamo proprio al dibattito, quasi al brainstorming su questa squadra, perché del resto ci sono tanti concetti diversi, cioè sappiamo che il 3-5-2 era il tipo di modulo che piaceva di più alla difesa, il 4-2-4 è il modulo che piace, diciamo, originariamente di più all'allenatore, il 4-3-3, che è il mio preferito, è il non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto, ed è il modulo che che fanno le squadre in Italia, è il modulo che esalterebbe il talento di Insigne, che esalterebbe l'eventuale presenza di Jorginho, che potrebbe dare una possibilità al Sharawi, che in questo momento è uno degli italiani più in forma. Però insomma, quindi si andrà 3-4-3, Pier, come al solito, quindi cambiamo tutto. Cioè, effettivamente 3-4-3 è un'ipotesi, a me sembra che sia l'ipotesi più probabile. L'alternativa è il 4-2-4, che poi voglio dire, anche il 4-2-4 ovviamente tu lo puoi, dipende da come lo declini, nel senso che se lo declini con un atteggiamento da parte dei due esterni offensivi più prudente, a turno di ripiegamento diventa quasi un 4-3-3, cambiano le caratteristiche di partenza dei titolari. Io credo che il 4-3-3 sarebbe la soluzione più logica per questa squadra, per come gioca, per quelle sì, per però siamo fuori tempo utile. Monica ha detto una cosa meravigliosa, basta questi numerini, anche perché poi ci incartiamo da soli dicendo allora quel giocatore lì può giocare solo con quel modulo lì, ma che giocatori sono? Cioè, ne abbiamo discusso dietro i moduli ci sono i movimenti, tutto il resto va bene, ok, d'accordo, però se sei un grande giocatore a livello internazionale Carlo, a parte che di grandi giocatori a livello internazionale non so quanti ne abbiamo, nel senso che più della Svezia sicuramente, no, perché sennò ho letto che hanno sacrificato Verratti perché giocava Bonucci. Verratti ha fatto pena l'altro giorno. La Svezia ha un sistema di certezze consolidate, collaudate dall'inizio del percorso, sono quelli, giocano in quel modo, sono prevedibili, ma sono loro lo fanno, e noi abbiamo fatto cambi di modulo, cambi di uomini, e c'è questa confusione, è quella che stiamo pagando in questo momento. Io non sono d'accordissimo con Carlo, io penso che al di là del fatto che sicuramente sono noiosi i moduli, e lo capisco perfettamente, quindi la semplificazione giornalistica diventa un covercianese inutile, però a questi livelli qui la differenza la fanno i dettagli, sì. E i dettagli li fanno anche queste robe noiose tattiche delle quali parliamo. La differenza li fa anche il libro degli schemi che deve aver mandato il libro degli schemi, più che il libro degli schemi, le spaziature in mezzo al campo, cioè le fette di campo che i giocatori devono coprire con lo spazio che hanno a disposizione davanti. Cioè, vedere l'altro giorno due attaccanti che, oltretutto, anche lì io pensavo che ci fosse stato un lavoro, diciamo, di addestramento ad hoc, vedere due prime punte occupare gli spazi al centro dell'area di rigore avversaria, ragazzi, è una cosa che non si fa più. Ha fatto un po' male al cuore. Aspetta, Pier, allora, abbiamo Alessandro da Rimini e Luciano dalla provincia di Brescia. Io però prima rubo gli ultimi 30 secondi a Monica Vanali, cui consegno l'ufficio facce, perché so che se a San Siro, insomma, avete visto, al di là di Buffon e Ventura in conferenza stampa. Allora, ufficio facce a 26 ore e qualche minuto da Italia-Svezia. Monica sta zitta, è un brutto segnale, perché o è caduta la linea o è preoccupata. No, sto pensando come non deprimerci. No, sai perché? Stavo riflettendo su una cosa mentre parlavate, perdonatemi, non mi sono distratta, sia ben chiaro, ecco. Perché l'ho fatto una domanda prima anche a un collega svedese, che stava qui tra breve, appunto parla il CT Anderson. Alla vigilia Anderson era tutto, scherzava con Granqvist, facevano battute, eccetera, eccetera. E allora gli ho chiesto, ma scusa, lo troviamo di nuovo sereno e tranquillo? Cioè, si sta giocando al mondiale, è vero, è forte del vantaggio, però... Ma no, ma lui è sempre così, lui ride e scherza. E vi ricordo che prima della partita questo signor allenatore si mangia un bel wurstel con ketchup e maionese. Grande. Cioè, numero uno. In più in Svezia mi hanno detto che lui dista circa 12 km dalla sede della Federcalcio, rispetto a casa sua, lui ogni mattina va in Federcalcio a piedi. E così ha modo di salutare anche le persone che lo fermano, eccetera. È un'altra mentalità, un altro mondo, però fa ridere. Facce azzurre tese. Tese, le abbiamo viste oggi, anche se scherzavano, comunque Ventura e Buffon, comunque si vede che sono tesi. Grazie Monica. Ciao Monica. Grazie Monica Vanali. Allora dai, Alessandro e Luciano. Prima Alessandro, intanto mancano tre giri alla fine del Gran Premio di San Paolo. Vettel, Bottas, Raikkonen e Hamilton. Alessandro. Buonasera, grazie della convocazione. Sarò telegrafico. Il mio concetto è questo: ho sentito parlare di grandi responsabilità di Ventura, che ovviamente ci sono, ma la federazione, chi l'ha messo lì in primis, e in secondis i calciatori. Cioè, io sono d'accordo con Parlo, non vedo Graziani, Rossi, Altobelli, vedo dei giocatori Immobile, Belotti, Insigne, eccetera, che non hanno quella statura internazionale. Ecco, grazie. Luciano. Sì, buonasera, mi scusi. Ecco, mi allaccio proprio all'ultimo intervento di questo ascoltatore. Allora, se si discute la caratura internazionale di Insigne, si potesse andare a, potrebbe andare a rivedersi l'ultima partita che ha fatto Insigne con Manchester City, quando Mertens aveva un problema alla coscia e ha sorretto da solo l'attacco del Napoli. Quindi, e poi l'ultima cosa, velocissimamente, mi spiegate perché Ventura convoca 5 esterni in rosa, Sharaw, Insigne, Florenzi, Bernardeschi. Non c'è nessuno. E poi gioca con le due punte, Immobile e Pelotti. Adesso te lo spiega per Luigi Pardo, no, che guarda, poi salutiamo. Lì ribadisco, vai. Io proprio non l'ho capita, nel senso che oggi nel calcio moderno sappiamo che la tendenza è quella di liberare gli spazi, per quindi al massimo si gioca con una punta centrale, quindi quella cosa lì non l'ho capita. Sulla caratura internazionale di Insigne sono d'accordissimo, io credo che Insigne sia il talento migliore che abbiamo dal punto di vista ovviamente di quel ruolo, di chi deve accendere la luce, poi c'è la qualità di Buffon, c'è la difesa, però dal punto di vista del calcio offensivo è il talento più scintillante che abbiamo. Sicuramente non è ancora un giocatore, non è ancora un fuoriclasse assoluto, c'è ancora uno che ha bisogno di uno spartito come quello che gli consegna ogni settimana Sarri per fare la differenza. Credo in generale, anche sentendo i discorsi di Monica Vanali sui 12 chilometri, cioè noi siamo una buona squadra. Ventura si è trovato di fronte una missione non semplice. Mi ricordo che ne parlavo con lui in una cena pochi giorni prima dell'ufficializzazione. Il girone con la Spagna era oggettivamente un girone complicato e viviamo una fase di transizione del nostro calcio. Il problema è che in questo maledetto autunno del 2017 abbiamo fatto troppi errori, abbiamo approcciato le partite, in particolar modo quella con la Spagna, con la testa sbagliata e l'allenatore ha perso il controllo della situazione. Questa è la sostanza questo è un dato perché di fatto. Perché poi è ovvio che in un altro girone probabilmente questa nazionale forse non sarebbe neanche andata al playoff, ed è altrettanto ovvio che il playoff lo puoi anche fare, ma ci siamo arrivati male, ci siamo arrivati polemici, nervosi, sfiduciati, impauriti. Ecco, oggi ho letto tanti commenti sui giornali, tanti ex, questo mi sento anch'io di dirlo, bisogna cacciar via la paura, però la paura è una di quelle cose che non è che cacci via dicendo basta, non ho più paura. No, devi aggrapparti a qualcosa, devi aggrapparti a qualcosa. Abbiamo, ragazzi, state tranquilli, abbiamo 26 ore e 12 minuti, si fa, la paura si caccia via 26 ore e 12 minuti. Piera, a domani, riflettici questa notte. Dai, che ce la facciamo. Sennò che facciamo quest'estate, ragazzi? Dai, ciao Pier. Il mondiale lo guardo comunque. Certo, dal buco della serratura si guarda tutto, però il mondiale sarebbe meglio starci da protagonisti. Mi fai tenere il mio pessimismo mentre aspetta, vince. Se il giro finale del Gran Premio del Brasile, siamo strani in ritardo sul meteo, facciamo il meteo e torniamo. C'è Massimo Marianella dopo, grande, ma sta vincendo Vettel davanti a Bottas e Raikkonen. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. E Stibia frappe! Le 2-0! Le capitaine Benatia qui est au point de chute. 2-0 pour le Maroc. Et c'est terminé. La délivrance pour le peuple marocain. Questa è la grande festa del Marocco, che nelle scorse ore è stata la 26esima squadra ad iscriversi al Mondiale di Russia 2018, ci torna dopo 20 anni, in una fase finale del Mondiale, ci torna con Benatia grande protagonista, la terzina delle africane che si sono qualificate dopo il Marocco, vede anche Tunisia e Senegal, il Senegal di Koulibaly. Saluto Massimo Marianella, ciao Massimo. Buonasera ragazzi. Allora diamo l'aggiornamento intanto. Svizzera, Irlanda del Nord, 38esimo minuto, 0-0. Si parte dall'1-0 esterno della Svizzera, gol di Rodriguez tra mille polemiche su calcio di rigore. Stiamo seguendo tutto su Sky, dove Italia parte, ma anche l'Italia. Poi, però insomma si può seguire tutto ciò che accade negli spareggi dell'area europea. Oh, io voglio partire con Massimo Marianella da questa cosa che ha detto prima del meteo, non ricordo chi, magari l'Italia in un altro girone non avrebbe nemmeno avuto bisogno dei playoff. Io non sono così sicuro, Massimo, vista la qualità media delle europee. Posso aggiungere una domanda? Sei fiducioso o no? Molto. Sinceramente molto. nonostante, e qui rispondo anche alla prima domanda, nonostante questa, diciamo, non sia la nostra miglior generazione calcistica, non abbiamo i talenti cui siamo tendenzialmente abituati, e non è la miglior generazione di CT. Detto questo, che mi sembra una premessa corretta, sono d'accordo che in un altro girone non è detto che l'Italia si sarebbe qualificata, non è affatto detto, perché l'Italia è questa, però proprio perché l'Italia è questa in tutto, lo è anche secondo me nella capacità che è molto nostra di riuscire poi nel momento direi indispensabile a questo momento di trovare una soluzione in tutti i modi per andare oltre, andare oltre anche a, ma non ne faccio mistero, un CT che io non amo moltissimo, a delle scelte quantomeno singolari in alcune situazioni. Io credo che l'immagine televisiva dell'anno sia Insigne che entra e dice a un compagno centrale sì, con lo sguardo vuol dire che devo farvi, mi hanno messo qua. Detto questo, sono e resto molto ottimista sul passaggio al turno in Italia, perché innanzitutto giochiamo contro una squadra non di fenomeni, cioè la Svezia, una squadra che è molto fisica e ci ha dimostrato di aver impostato la partita anche in casa in maniera molto fisica, credo che farà lo stesso a San Siro, però giochiamo poi in casa nostra e nel momento in cui l'Italia dovesse, come io credo che accadrà, segnare un gol, poi come dire, partiamo in parità in casa mia, quindi sono abbastanza fiducioso. Poi sento dire dagli spifferi dello spogliatoio dell'Italia che non gioca De Rossi, e non ne sarei d'accordo io, cioè tu punteresti su quelli che, sì, che hanno l'azzurro tatuato sulla pelle. Ma guarda, nelle grandi partite servono innanzitutto i grandi giocatori, e oltre ai grandi giocatori servono quelli che sanno cosa vuol dire e come si giocano quelle partite lì, e Daniele De Rossi è sicuramente l'emblema del giocatore che sa come si gioca una partita del genere, quindi francamente non rinuncerei a lui, che tra l'altro secondo me non ha demeritato se non altro più di altri nella partita d'andata, quindi è già una scelta che non capisco. Sul difesa 3 o difesa 4 io personalmente giocherei con la difesa 4 in questo caso, e metterei i tre davanti, ma perché non, quindi tanto... fareste il 4-3-3, facciamo sintesi, no? Sì, ma sì, perché me lo consiglia, o meglio glielo consiglierebbe da tanto tempo al CT il campionato, cioè le nostre principali squadre giocano con un sistema che è vicino, se non quasi tutte con quel sistema lì, e quindi io devo mettere i miei giocatori nella situazione migliore possibile, che conoscono meglio, quindi io personalmente seguirei le indicazioni sono del campionato, Max, e giocherei con quel sistema lì. Ti posso fare due domande in una? La prima riguarda Verratti, che non ci sarà perché è squalificato, lo sappiamo. Quando lo vedremo giocare una partita da grande giocatore, quale riteniamo sia in nazionale? L'altra sera è stato sinceramente improponibile a partire dall'ammonizione in prima e in poi. Cioè, continuiamo a dire questo ragazzo, Paris Saint-Germain, tiene in mano il centrocampo di una squadra, leader in Europa, bla bla bla, però io ancora non l'ho visto e il tassametro corre. La seconda, sei anche tu un integralista di numerini come Pardo, cioè io continuo a pensare un po' all'antica forse, su Demodé. Moduli importanti, però se mi dici che Insigne deve giocare una piastrella di 10 metri quadrati per rientrare sul destro e tirare in porta, allora dico vabbè, allora che giocatore abbiamo? Guarda, sui moduli, sui numeri, io credo, noi siamo un paese che ama moltissimo parlare al bar, dal barbiere, del 3-5-2, il 4-4-2, il 4-3-3, e ne abusiamo, ma ne abusiamo anche noi che poi facciamo questo di lavoro, francamente. Io poi credo che alla fine quello che conta in una partita, e soprattutto in una partita come questa, alla fine sarà il cuore, la voglia, la determinazione, con qualsiasi numero tu metti in campo la squadra. Su Verratti ti dico che io l'ho visto giocare delle grandi partite, aveva la maglia del Paris Saint Germain e le ho commentate nazionale, addirittura no, no mai un paio al Camp Nou, l'ho visto giocare una grande partita contro il Chelsea, Però insomma, questo ragazzo, sono d'accordo, deve proprio in nome del il tassametro corre, inteso come i giorni, gli anni, il periodo esatto. migliore della sua carriera, deve cominciare innanzitutto a perdere questa abitudine, questo hobby che ha di prendere un giallo a partita, perché non è possibile, ad alto livello non è possibile. E poi deve cominciare a concretizzare, a dare continuità ad una capacità che ha, a un talento che ha, tra l'altro nella doppia dimensione. Quello che mi piace molto di Verratti a me è il fatto che sa giocare in contenimento, sa giocare in proposizione, in questo senso è chiaramente il centrocampista moderno per quello che è l'interpretazione del calcio oggi, per la velocità che ha il calcio oggi. Però innanzitutto basta ammonizioni, che vuol dire che non sei attento, perché una volta va bene, due volte va bene, però non si può prendere un giallo a partita perché dai una mano troppo agli avversari, e vuol dire che non sei attento mentre stai giocando, e poi deve avere più continuità. Su questo sono d'accordo. Allora, prima di salutarti, abbiamo detto prima col Marocco, Tunisia e Senegal siamo arrivati a 26 squadre. Due usciranno da Honduras, Australia e Nuova Zelanda, Perù, 0-0 tutte e due all'andata, Perù e Australia credo favorite per il ritorno. Stiamo vedendo la Svizzera, quasi finito il primo tempo, 0-0, deve difendere l'1-0 dell'andata. Stasera c'è la Croazia contro la Grecia. Croazia, a proposito, se l'avessimo presa, secondo me le nostre speranze sarebbero crollate in maniera drammatica di andare al mondiale. Poi abbiamo visto la Danimarca che si è fatta fermare dall'Irlanda, ma credo non sia una sorpresa. Tolto Italia-Svezia, dici le tre italiane, dai, le tre europee, scusami, che vanno al mondiale. Le tre italiane erano in difficoltà. No, ma noi non prendiamo in considerazione altra cosa, quindi. Guarda, la Croazia è già andata, la Svizzera andrà tra poco. L'altra per fortuna non lo so, nel senso che io domani mattina vado a Dublino per commentare il ritorno, e ho fatto un tifo bestiale perché non ci fosse un tiro in porta all'andata, perché volevo che la giocassero sotto i miei occhi, e così sarà. Alla fine, se proprio costretto, ti dico Irlanda, ma non sono per niente sicuro, anche perché io credo che potrebbero far 0-0 anche a Dublino, nel senso che penso che Leire farà una partita ancora di contenimento e l'Irlanda, la Danimarca attaccherà di più. Non so se basterà contro una squadra molto organizzata. La partita però sarà più o meno quella dell'andata, in un campo migliore. Ne sono, pensa, più contenti i danesi, che fa sorridere questo. Insomma, grazie Massimo, ciao, Marinella, Massimo. Buon viaggio. Ciao. Ti seguiamo martedì sera su Sky per Irlanda-Danimarca. 0-0 l'andata, 0-0 il primo tempo di Svizzera e Irlanda del Nord. Non ha fatto 0-0 la Ferrari. Dopo il traffico ne parliamo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Brasile: ha vinto Sebastian Vettel, 47esimo successo della carriera, terzo in Brasile, poi Bottas e Raikkonen a completare il podio, quindi Hamilton quarto dopo essere partito ultimo dai box, e quindi le due Red Bull, quelle di Verstappen e Ricciardo. Questo ha detto la penultima prova del mondiale. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore, buonasera. Ciao, buonasera, ciao. A tutti. Quindi siamo tutti contenti che la Ferrari non abbia fatto 0-0 questa sera, non si sia scontrata, non abbia fatto niente. No, lo dico perché poi voglio sapere cosa ne pensa dell'intervista di oggi sulla Gazzetta di Niki Lauda, che ha detto che la Ferrari ha buttato via il mondiale. La Ferrari ha buttato via il mondiale, è vero, l'ha buttato via la Ferrari, l'ha buttato via la Ferrari, l'ha buttato via Vettel. Sicuramente la Ferrari ha buttato via una grande occasione, però poi se vedi l'Hamilton di questa sera, da dove è partito, dove è arrivato, dice vabbè, meno male che partiva là in fondo, se no lo vedevamo al via, poi non lo vedevamo più fino al traguardo. Questa volta la Ferrari ha approfittato della grande occasione. Aveva fallita ieri in qualifica, oggi Vettel è stato impeccabile, ha guidato da leone alla partenza e poi quando è rientrato in pista dopo il pit stop ha ricacciato indietro Bottas con una cattiveria, una grinta che non gli avevamo visto in tante altre occasioni, quando gli hanno tremate un po' le mani, ed era stato, come ha detto Marchionne, un po' napoletano, lasciandosi prendere dall'emozione. Ah, io scusa direttore, a proposito del buttato via, io azzardo un certo parallelismo tra Vettel, la Ferrari, Dovizioso e la Ducati. Buttato via, avevi di fronte comunque un avversario fortissimo, nel caso di Hamilton anche con una macchina leggermente superiore, nel caso di Dovizioso, vabbè, la gara di oggi, ma anche prima della gara di oggi si è capito che Marquez non ha certamente rubato questo titolo. No, ma io con questo ti dico che comunque la Ferrari, come la Ducati, come Dovizioso, meritano gli applausi per questa stagione, perché se ricordiamo da dove è partita la Ferrari un anno fa, arrivare a vincere 5 gare, è rimasta in lotta per il mondiale fino alla terz'ultima di questo campionato, fino a Monza era in testa al campionato Vettel, ha perso l'occasione un po' per gli errori del pilota, un po' perché è mancata l'affidabilità nel momento clou della stagione, poteva restare in lotta fino alla prossima gara di Abu Dhabi, però ovviamente obiettivamente Hamilton ha fatto una stagione quasi perfetta, ha sbagliato ieri. Però è un po' velenosetto quando Lauda dice la Ferrari era la macchina migliore quest'anno. Ma sai, anche per tenere sui suoi piloti, il suo pilota, insomma. Allora è quella la chiave di lettura. Hai battuto una macchina più forte della tua, cioè Lauda poi, a seconda del cappellino che mette su quella domenica o quel sabato, dice le cose, insomma, è stato un grandissimo campione, adesso a parole diciamo che se la gioca molto bene a seconda di chi lo intervista. Oppure che è il paracolo di sempre. Un italiano, intervistando la ragazza, esattamente, hai detto la parola giusta. Che non ho capito. Paraculo. Te lo ripeto con 3 volte che vuoi. Lo ripete lui. Vabbè, comunque, almeno è stato un gran premio divertente, non c'era nulla da dire, hanno corso tutti liberi ed è stata una gara divertente con una rimonta di Hamilton pazzesca, perché pensi che partiva dai box, è vero, ha avuto la safety car subito nei primi 5 giri e tutto, però è arrivato a 5 secondi e 4 da Vettel, quindi ha fatto davvero una gara pazzesca. Dall'altra parte, ecco, io mi chiedo, ma Vettel quando non c'è in palio il mondiale riesce a tirar fuori il meglio di sé? Lo abbiamo visto invece tremare un po' nelle gare decisive, la partenza di Singapore soprattutto, poi dopo anche la partenza in Messico, oggi che non aveva nulla assolutamente da perdere ha fatto il Vettel, quello su cui deve puntare la Ferrari per tornare a vincere il mondiale. Questo però permettimi è abbastanza preoccupante soprattutto se ci proiettiamo verso il 2018, ma poi per uno che ne ha 24 mega uno anche perché ci sarà Hamilton, ma io temo che l'anno prossimo avremo anche Verstappen e non sottovaluterei un possibile ritorno in qualche gara di Alonso, quindi sarà molto dura, per cui c'è bisogno che Vettel pur avendo già 4 mondiali in tasca si acquisti un po' di autostima nel corpo a corpo, insomma, perché l'ho visto soffrire come gli era capitato altri anni perché Vettel è uno che aveva perso la Trebisond anche contro Webber e poi contro Ricciardo quando era in Red Bull, quindi ogni tanto gli capita e invece lo vedi quando è libero e quando corre in testa riesce a fare delle cose. Allora rispondo a Luigi che ha scritto cosa significa un po' napoletano, potreste spiegarlo? Significa che ragiona più col cuore alle volte che con la testa, più senza emozionale, perché magari abbiamo usato poi la gente che manda a casa capisce Marchionne male, senza nessun accenno. Carissimo Luigi, così te l'abbiamo spiegato. Il cuore, esatto. Che si fa prendere dall'emozione, non è freddo come un tedesco, è più diciamo va più di pancia come un latino, diciamo. Marchionne ha usato napoletano, ma diciamo un latino. Dai, grazie direttore. Ciao direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie Umberto Zappelloni, io mi scuso con Francesco e Andrea da Roma, domani però alle 14 torniamo e quindi la seduta è semplicemente aggiornata, anche perché c'è da vivere la lunghissima attesa d'Italia-Svezia, cui domani Radio 24 dedica un'attenzione particolare, poi domani Carlo Genta alle 14 vi spiegherà tutto. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone e Gianmarco Ferronato in regia. Noi con tutti i convocati weekend torniamo domenica alle 17 e sarà una domenica eccezionale. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!